sfilano giorno dopo giorno e sai che non smetterà mai. Una donna ti ama, ti vuole e tu non l'ami, lei ti ama di più. Come fare a lasciarla ancora non sai e forse non la lascerai mai. Hai problemi in famiglia, nel cuore chissà oggi chi li risolverà. Manca uno spunto, qualcosa che risolva il disordine in te. Se un amico sincero consigli ti dà, relativo noioso il discorso sarà. Ti chiudi nel buio se imparati a pensare pensieri, li anneghi col bere. Stesso il tuo corpo a chi non ti merita d'ora, ancora sei qui che mi parli di amore, di cose che tu vorrei avere e non perdere più. Guarda allo specchio, fermi a pensare, per ritrovarti sai devi lottare. Hai lottato ed hai vinto, hai avuto successo, hai ritrovato te stesso. Hai lottato ed hai vinto, hai avuto successo, hai ritrovato te stesso.